Le 9:10 alla reception. Salve. Hello. Thank you for the flowers. Ma è un piacere. And sorry I'm late. In ritardo? Perché? Che ora è? Le 9:10. Non importa, solo 10 minuti, non è niente. Allora, ha fame? Oh yes, dove mangiamo? Mangiamo in albergo, che ne dice? Il ristorante qui è buonissimo. Ok then, va bene. Bene, andiamo, prendiamo l'ascensore. La sala da pranzo è all'ultimo piano.